ne andrò e non è molto difficile. Me ne andrò e non c'è niente da ridere. Griderò per non lasciarmi convincere. Voglio uscire, andare senza più affogare in mezzo alle banalità. Cercherò dell'altro tempo da vivere. Troverò un altro foglio da scrivere. Ci sarà un nuovo tasto da premere per ricominciare, per poter trovare nuove luci nelle vie. Oh no, no, adesso non si torna indietro. No, no, no, e la zanzara rompe il vetro. Oh no, no, andiamo avanti, c'è del posto. No, no, no, perché il passato non fa testo. Ci sarà un nuovo treno da prendere, un'età ed un terreno da vendere. Eri tu il nuovo male del secolo, ma si può cambiare per poter guardare nuove luci nelle vie. Oh no, no, ed una strada sconosciuta. Ma no, no, e questa vita va vissuta. Oh no, no, la lepre sfugge alla tagliola. Oh no, no, domani c'è una donna sola. ¡Suscríbete!